Libro 3. Aspettando la morte. Capitolo 23. Fredwin, sì, come abbiamo visto, aveva un debito che lo rodeva, e sebbene nessuna responsabilità di tale peso potesse deprimere per molte ore di seguito quel giovanotto dal cuore esuberante, vi erano circostanze collegate a questo debito che rendevano il pensiero di esso insolitamente fastidioso. Il creditore era Mr. Bembridge, un commerciante di cavalli dei dintorni, la cui compagnia era assai ricercata a Middlemarch, da giovanotti che, a quanto si diceva, erano dediti al piacere. Durante le vacanze, Fred naturalmente aveva preteso più passatempi di quanti se ne potesse pagare in contanti, e Mr. Brandish era stato abbastanza compiacente da fargli credito su dei cavalli noleggiati e sulle spese impreviste, per aver rovinato un bel cavallo da caccia, ma anche da anticipargli una piccola somma con cui poter pagare alcune perdite al biliardo. Il debito assommava a 160 sterline. Bembridge non si preoccupava per i propri soldi, certo, come era che il giovane Vincey aveva qualcuno che lo finanziava, ma aveva preteso qualcosa che dimostrasse il debito, e Fred dapprima gli aveva dato una cambiale con la propria firma. 3 mesi dopo aveva rinnovato questa cambiale, con l'avallo di Caleb Garth. In entrambe le circostanze, Fred si era sentito certo di poter pagare lui stesso alla cambiale, possedendo, secondo le sue aspettative, ampie disponibilità finanziarie. Non pretenderete che la sua fiducia si basasse sui fatti concreti. Una tale fiducia, lo sappiamo, è qualcosa di meno volgare e materialista. È un'indole serena che ci porta a sperare che la saggezza della provvidenza, la follia dei nostri amici, i misteri della fortuna o il mistero ancora più grande del nostro elevato valore individuale in seno all'universo determineranno delle conclusioni gradite, in armonia col nostro buon gusto in fatto di abiti e la nostra preferenza generale per le cose migliori. Fred si sentiva certo che avrebbe ricevuto un regalo dallo zio, che avrebbe avuto un periodo di fortuna, che a forza di barattare avrebbe operato la graduale metamorfosi di un cavallo da 40 sterline in un cavallo che gliene avrebbe fruttate 100 in qualsiasi momento, che il mettere a giudizio era sempre equivalente a una somma non specificata in sonori contanti. In ogni caso, anche immaginando dei dinieghi frutto solo di una sfiducia morbosa, Fred aveva sempre a quel tempo come ultima risorsa le tasche del padre, di modo che i beni sperati avevano intorno una sorta di splendida sovrabbondanza. Quale poteva essere la capacità delle tasche del padre? Fred ne aveva solo una vaga idea. Il commercio non era una cosa elastica e il disavanzo di un anno non sarebbe stato colmato dall'eccedenza di un altro. I Vinci vivevano in modo comodo e generoso, senza alcuna nuova ostentazione, ma secondo le abitudini e le tradizioni di famiglia. Cosicché i figli non avevano alcun criterio di economia e i più grandi conservavano un po' di quell'idea infantile che il padre potesse comprare qualsiasi cosa volesse. Lo stesso Mr. Vincey aveva delle dispendiose abitudini da buon cittadino di Middlemarch. Spendeva denaro nella caccia con i levrieri, per la cantina e per i pranzi, mentre la madre aveva quei conti aperti con i commercianti che danno il piacevolissimo senso di procurarsi tutto quello che si desidera senza che ci sia il problema di pagare. Ma faceva parte della natura dei padri, questo Fred lo sapeva, tiranneggiare uno per le spese che faceva. C'era sempre Maretta per la sua prodigalità se doveva rivelare un debito, e a Fred il brutto tempo all'interno delle mura domestiche non piaceva. Era troppo un bravo figliolo per mancare di rispetto al padre e sopportava il tuono nella certezza che si trattava di cosa passeggera, ma nel contempo era sgradevole vedere la madre piangere e anche essere obbligati a mostrare una faccia triste invece di divertirsi, perché Fred era di un carattere così buono che si sembrava tetro sotto i rimproveri, era soprattutto per amore del decoro. La soluzione più facile, chiaramente, era di rinnovare la cambiale con la firma di un amico. Perché no? Quelle garanzie che la speranza le aveva messo a disposizione, non vi era alcun motivo per cui non dovesse impegnare la disponibilità degli altri in qualsiasi misura, se non fosse stato per il fatto che coloro il cui nome serviva a qualcosa erano di solito pessimisti, non inclini a credere che l'ordine universale delle cose fosse per forza compiacente verso un giovanotto simpatico. Dovendo chiedere un favore, passiamo in rivista l'elenco dei nostri amici, rendiamo giustizia alle loro qualità più amabili, perdoniamo le loro piccole offese e riguardo a ciascuno, uno per uno, cerchiamo di giungere alla conclusione che sarà disposto a farci un favore, dal momento che il nostro desiderio di essere oggetto di un favore è coinvolgente come un qualsiasi altro desiderio. Eppure ve ne è sempre un certo numero che respingiamo, in quanto solo in parte disposte ad aiutarci, finché gli altri non abbiano rifiutato. E accadde che Fred spuntò tutti i suoi amici tranne uno, poiché riteneva che rivolgersi ad essi sarebbe stato sgradevole. Era implicitamente convinto che almeno lui, e che si potesse dire dell'umanità in generale, aveva il diritto di andare esente da qualsiasi cosa sgradevole, che dovesse venirsi a trovare in una posizione del tutto spiacevole, indossare dei pantaloni ristretti dopo essere stati lavati, mangiare castrato freddo, dover andare a piedi per mancanza di un cavallo o abbassare la testa in qualsiasi maniera. Era una sordità che non si conciliava assolutamente con quelle belle idee che la natura gli aveva infuso. E Fred si ritraeva davanti al pensiero di essere guardato dall'alto in basso, perché non aveva del liquido per pagare dei debitucci. Così accadde che l'amico a cui scelse di rivolgersi era ad un tempo il più povero e il più gentile, vale a dire Caleb Garth. I Garth volevano molto bene a Fred, in quanto era uno dei loro. Infatti, quando lui e Rosamond erano piccoli e i Garth versavano in condizioni più floride, il sottile rapporto di parentela fra le due famiglie tramite due matrimoni di Mr. Fairstone, il primo con la sorella di Mr. Garth e il secondo con quello di Mrs. Vincy, aveva condotto a una conoscenza coltivata più dai figli che dai genitori. I bambini prendevano il tè insieme con le loro piccole tazze e trascorrevano giornate intere a giocare. Mary era un piccolo maschiaccio e Fred, a 6 anni, la considerava la ragazza più carina del mondo e la sposava con un cerchietto d'ottone che aveva reciso da un ombrello. Durante tutte le tappe della sua istruzione, egli aveva conservato il proprio affetto per i Garth e l'abitudine di andare a casa loro come una seconda dimora, sebbene qualsiasi rapporto tra di loro e i componenti più anziani della sua famiglia fossero cessati da lungo tempo. Persino quando Caleb Garth era benestante, i Vincy trattavano lui e la moglie con aria di condiscendenza, perché a Middlemarch vigevano sottili distinzioni di rango e sebbene dei vecchi industriali non potessero più di quanto potessero i duchi, essere imparentati con nessuno tranne che con i propri pari, erano consapevoli di una superiorità sociale connaturata, che in pratica veniva osservata con grande precisione, anche se era difficilmente esprimibile in termini teorici. Da allora era andata in fallimento l'impresa edilizia di Mr. Garth, che questi aveva sfortunatamente associato alle sue altre attività di agrimensore, perito e agente immobiliare. Egli aveva mandato avanti l'impresa per un certo tempo a totale beneficio dei suoi assegnatari ed aveva vissuto in ristrettezze, sforzandosi al massimo per poter dopotutto pagare 20 scellini per ogni sterlina di debito. Ora aveva raggiunto questo scopo e i suoi nobili sforzi gli avevano guadagnato la dovuta stima di tutti coloro che non consideravano il fatto un cattivo precedente. Ma in nessuna parte del mondo le visite raffinate si fondano sulla stima, quando manca il mobilio adatto e un servizio da pranzo completo. Mrs. Vincy non si era mai trovata a proprio agio in compagnia di Mrs. Garth e di frequente, parlando di lei, diceva che era una donna che aveva dovuto lavorare per guadagnarsi da mangiare, intendendo che Mrs. Garth aveva fatto l'insegnante prima di sposarsi. In questo caso, una conoscenza della grammatica di Lindley Murray e delle domande della Mangnall era qualcosa di simile alla capacità di distinguere i marchi di fabbrica del calico da parte di un negoziante di tessuti o la conoscenza di paesi stranieri da parte di una guida turistica. Nessuna donna benestante aveva bisogno di cose del genere. E da quando Mary si occupava della casa di Mr. Fairstone, l'assenza di simpatia di Mrs. Vincy verso i Garth si era tramutata in qualcosa di più deciso, per la paura che Fred si impegnasse con questa ragazza bruttina, i cui genitori conducevano una vita così modesta. Fred, consapevole di ciò, in casa non accennava mai alle sue visite a Mrs. Garth, che di frequente si erano infittite, perché l'ardore crescente del suo affetto per Mary faceva aumentare di tanto la sua propensione verso coloro che appartenevano alla famiglia di questa. Mr. Garth aveva un ufficetto in città e Fred si recò lì con la sua richiesta. Questa fu esaudita, senza molte difficoltà, perché un gran numero di dolorose esperienze non era bastato a rendere Caleb Garth prudente nei suoi affari o diffidente verso i suoi simili, quando non si erano dimostrati disonesti, e nutriva una grandissima stima per Fred. Era sicuro che il ragazzo sarebbe cresciuto bene, un tipo aperto, affettuoso, con un carattere fondamentalmente buono. Ci si poteva fidare di lui in tutto e per tutto. Tale era il ragionamento di Caleb. Era uno di quei rari uomini che sono severi con se stessi e indulgenti verso gli altri. Aveva un certo pudore per gli sbagli del prossimo e non ne parlava mai volentieri. Perciò non era probabile che gli stogliesse la mente dal modo migliore per irrobustire il legname da costruzione e da altri ingegnosi stratagemmi allo scopo di prevedere quegli errori. Se doveva rimproverare una persona qualsiasi, era necessario che spostasse tutte le carte a portata di mano o descrivesse sul pavimento vari diagrammi, con l'asticciola e calcolasse gli spiccioli che aveva in tasca prima che fosse in grado di cominciare, e preferiva fare il lavoro di altri piuttosto che trovare da ridire sulla sua esecuzione. Temo che non sapesse mantenere la disciplina. Quando Fred lo ebbe messo al corrente delle circostanze del suo debito, del suo desiderio di estinguerlo senza disturbare il padre e della certezza che il denaro sarebbe arrivato presto in modo da non mettere a disagio nessuno, Caleb spinse verso l'alto gli occhiali, fissò i giovani occhi trasparenti del suo beniamino e gli credette, non facendo differenza fra la fiducia nel futuro e la sincerità sul passato. Ma capì che quella era una buona occasione per un suggerimento amichevole sulla condotta da seguire e che prima di dargli la firma doveva impartirgli un ammonimento in termini piuttosto forti. Di conseguenza prese la carta e si abbassò gli occhiali, misurò lo spazio a sua disposizione, allungò la mano verso la penna e la esaminò. L'intinse nell'inchiostro e la esaminò di nuovo, poi spinse la carta un po' lontano da sé. Si sollevò nuovamente gli occhiali, mostrò un incavarsi profondo all'angolo esterno delle sopracciglia cespugliose, che conferì al suo volto una particolare aria di mitezza. Per una volta, perdonate questi dettagli, avreste imparato ad amarli se aveste conosciuto Caleb Garth, e disse in tono tranquillo: «È stata una disgrazia, spezzare le ginocchia al cavallo. E poi, questi scambi non riescono quando devi trattare con dei commercianti di cavalli che sanno il fatto loro. Un'altra volta sarai più attento, ragazzo mio». E subito Caleb si calò gli occhiali e procedette ad apporre la prima firma con la cura che metteva sempre in questa esecuzione, perché qualsiasi cosa facesse quando si trattava di affari, la faceva bene. Contemplò le larghe lettere ben proporzionate e lo svolazzo finale, inclinando un po' il capo per un attimo e poi porse la cambiale a Fred. Lo salutò e tornò immediatamente a immergersi in un progetto per le nuove fattorie di Sir James Chetta. O perché il suo interesse per questo lavoro gli fece scordare l'incidente della firma, o per qualche motivo di cui Caleb era maggiormente consapevole, Mrs. Garth rimase all'oscuro della faccenda. Da quando tutto questo era accaduto, nel cielo di Fred si era verificato un cambiamento che gli alterò il senso delle prospettive e fu il motivo per il quale il regalo in denaro dello zio Firstone aveva un'importanza sufficiente per togliergli e ridargli colore, prima per una speranza troppo certa e poi per una delusione proporzionata a quella. Il fatto che non fosse riuscito a superare l'esame aveva reso i debiti accumulati all'università tanto più imperdonabili agli occhi del padre, e in casa c'era stata una scenata senza precedenti. Mr. Vincey aveva giurato che se avesse dovuto sopportare un'altra cosa del genere, Fred avrebbe dovuto andare a guadagnarsi da vivere come poteva. E non aveva ripreso ancora del tutto a trattare col suo tono bonario il figlio, il quale lo aveva fatto infuriare in particolar modo perché aveva detto di non voler fare il prete e che avrebbe preferito non insistere su quell'idea. Fred si rendeva conto che sarebbe stato trattato ancor più severamente se la famiglia, oltre a lui, non lo considerasse segretamente l'erede di Mr. Fairstone. La fierezza e l'evidente tenerezza che il vecchio signore provava per lui gli tornavano utili in luogo di una condotta più esemplare, proprio come quando un giovane nobile ruba dei gioielli. Chiamiamo il gesto cleptomania, ne parliamo con un sorriso filosofico e non pensiamo che debba essere mandato in un riformatorio, come se fosse un ragazzo vestito di stracci che abbia rubato delle rape. In effetti, una tacita attesa di ciò che lo zio Firstone avrebbe fatto per lui determinava la posizione dalla quale la maggior parte della gente considerava Fred Vincey a Middlemarch. E nel suo pensiero, ciò che lo zio Firstone avrebbe fatto per lui in un momento di emergenza, o ciò che avrebbe fatto semplicemente per effetto della fortuna, si presentava sempre come una prospettiva aerea dalle profondità incommensurabili. Ma quel dono di banconote, una volta fatto, era misurabile e accanto all'ammontare del debito mostrava un deficit che doveva venire ancora colmato o dal giudizio di Fred o dalla fortuna sotto qualche altra forma. Infatti, quel piccolo episodio del presunto prestito in cui aveva fatto fare al padre l'intermediario per ottenere la dichiarazione di Bulstrode era un nuovo motivo per non andare dal padre a chiedere denaro per saldare il debito effettivo. Fred era abbastanza scaltro da prevedere che l'ira avrebbe confuso le distinzioni e che la sua smentita di aver contratto un prestito, fidando espressamente sul testamento dello zio, sarebbe stata interpretata come una menzogna. Era andato dal padre e lo aveva messo al corrente di una faccenda seccante, ma gliene aveva taciuto un'altra. In tali casi, una rivelazione completa produce sempre l'impressione di una precedente doppiezza. Ora Fred si vantava di stare alla larga dalle menzogne e anche dalle frottole. Spesso scrollava le spalle e faceva una smorfia significativa per quelle che chiamava le frottole di Rosamond. Sono solo i fratelli che possono associare tale idea a una bella ragazza, e piuttosto di incorrere nell'accusa di falsità, avrebbe preferito addirittura incorrere in qualsiasi fastidio e difficoltà. Era stato dietro un forte impulso interiore di questo genere che Fred aveva preso la saggia decisione di dare a sua madre in deposito le 80 sterline. Fu un peccato che non le avesse date subito a Mr. Garth, ma era sua intenzione completare la somma con altre 60 sterline e a questo scopo si era tenuto in tasca 20 sterline come una specie di seme di grano che, piantato dal giudizio e annaffiato dalla fortuna, avrebbe potuto fruttare più del triplo, un tasso di moltiplicazione assai scarso quando il campo è l'animo infinito di un giovane gentiluomo con tutti i numeri a propria disposizione. Fred non era un giocatore d'azzardo, non era affetto da quella malattia specifica in cui la concentrazione dell'intera energia nervosa di fronte a una probabilità o un rischio diventa necessaria come il sorso all'ubriacone. Era solo portato a quella forma di gioco d'azzardo diffuso, privo di ogni gradazione alcolica, ma che viene messo in circolo dal sangue durante una sana digestione, che conserva una gioiosa attività immaginativa che plasma gli avvenimenti secondo il desiderio. E non nutrendo timori per le proprie condizioni atmosferiche, vede solo i vantaggi a cui gli altri devono andare incontro, imbarcandosi con esso. La speranza prova piacere nel fare una puntata di ogni genere, perché la prospettiva del successo è certa, e un piacere ancora più generoso nell'offrire quante più quote possibili nella posta in gioco. A Fred piaceva giocare, soprattutto a biliardo, come gli piaceva andare a caccia o cimentarsi in una corsa a ostacoli, e gli piaceva di più soltanto perché aveva bisogno di denaro e sperava di vincere. Ma le 20 sterline di seme di grano erano state piantate invano nelle tante aiuola verde, perlomeno quelle che non erano andate disperse ai margini della strada, e Fred si trovò prossimo al termine per il pagamento senza alcun soldo a propria disposizione, tranne le 80 sterline che aveva affidate alla madre. Il suo cavallo polso rappresentava un dono fattogli molto tempo prima dallo zio Firstone. Suo padre le aveva sempre permesso di tenere un cavallo, poiché le abitudini dello stesso Mr. Vincey lo inducevano a considerarla un'esigenza ragionevole anche per un figlio piuttosto esasperante. Questo cavallo, quindi, era di proprietà di Fred e, nella sua ansia di pagare la cambiale prossima a scadere, questi decise di sacrificare un avere senza il quale la vita sarebbe valsa ben poco. Prese la decisione con un senso di eroismo, eroismo a cui era obbligato dal timore di mancare di parola con Mr. Garth, dal suo amore per Mary e dalla paura di ciò che essa avrebbe pensato. Si sarebbe avviato alla fiera dei cavalli di Hounsley, che si doveva tenere il mattino seguente, e avrebbe semplicemente venduto il cavallo, riportando indietro i soldi in carrozza? Beh, il cavallo non avrebbe fruttato certo più di 30 sterline e non si poteva sapere cosa sarebbe potuto succedere. Sarebbe stata follia rifiutare la fortuna prima ancora che si presentasse. C'era una possibilità su 100 che gli capitasse qualche caso fortunato. Quanto più ci pensava, tanto meno possibile gli sembrava che non dovesse capitargli una buona occasione e tanto meno ragionevole che non si fornisse della polvere e dei pallini per acchiapparla. Sarebbe andato a Hounsley con Bembridge e Horrock, il veterinario, e senza chiedere loro nulla espressamente avrebbe virtualmente goduto del vantaggio della loro opinione. Prima di avviarsi, Fred si fece dare dalla madre le 80 sterline. La maggior parte di coloro che videro Fred uscire da Middlemarch in compagnia di Bembridge e Horrock, naturalmente diretto alla fiera dei cavalli di Hounsley, pensarono che il giovane Vincey fosse a caccia di piaceri come al solito. E se non fosse stato per l'inconsueta consapevolezza di avere degli affari gravi da sbrigare, lui stesso avrebbe avuto il senso di darsi alla vita dissoluta e di fare ciò che ci si aspettava da un allegro giovanotto. Se consideriamo che Fred non era per nulla rozzo, che guardava con un certo disprezzo i modi e il parlare di giovanotti che non erano stati all'università, e che aveva scritto delle strofe così pastorali e privi di voluttà quanto il suo modo di suonare il flauto, Il fascino esercitato su di lui da Bembridge e Horrock era un fatto interessante, che anche l'amore per i cavalli non avrebbe del tutto spiegato, senza quel misterioso influsso della magia dei nomi, che determina tanta parte delle scelte dei mortali. Sotto qualsiasi altro nome che non fosse stato il piacere, la compagnia dei signori Bembridge e Horrock si sarebbe certamente dovuta considerare monotona. E arrivare in loro compagnia a Hounsley un pomeriggio piovigioso, scendere al Leone Rosso in una strada oscurata dalla polvere di carbone e cenare in una stanza abbellita da una mappa della contea smaltata di sudiciume, da un brutto quadro di un cavallo anonimo in una stalla, da un ritratto di Sua Maestà Giorgio IV con gambali e cravatta e varie sputacchiere di piombo, sarebbe potuta sembrare una faccenda ardua se non fosse stato per quella forza che attribuiamo ai nomi, che voleva che queste cose fossero definite gaie. In Mr. Horrock vi era certo un'evidente imperscrutabilità che offriva spazio alla fantasia. L'abito di primo acchito faceva pensare in modo elettrizzante ai cavalli. Basti accennare alla falda del cappello che si ripiegava leggerissimamente all'insù, da sfuggire per un pelo al sospetto di essere ripiegata all'ingiù. E la natura lo aveva dotato di una faccia che, in forza di occhi alla mongola e di un naso, una bocca e un mento che parevano seguire la falda del cappello, con una moderata inclinazione verso l'alto, dava l'idea di un pacato e immutabile sorriso scettico, che fra tutte le espressioni, la più opprimente per un animo sensibile, e se accompagnata da un silenzio adeguato, era probabile che creasse la fama di un intelletto senza pari, di un'infinita riserva di umorismo, troppo secco per scorrere, probabilmente in uno stato di crosta immobile, e di una capacità critica che, se uno fosse stato abbastanza fortunato da conoscerla, sarebbe stata l'unica cosa certa. È una fisionomia che si riscontra in tutte le professioni, ma che forse non ha mai goduto di un fascino maggiore sui giovani dell'Inghilterra che in un giudice di cavalli. Mister Horrock, dopo che Fred gli ebbe chiesto qualcosa sulla nocca del suo cavallo, si voltò di sbieco sulla sella ed osservò il movimento del cavallo per lo spazio di 3 minuti. Poi si voltò in avanti, diede uno strattone alla briglia e non disse parola, con un profilo né più né meno scettico di prima. Il ruolo in tal modo sostenuto da Mr. Horrock nel dialogo fu terribilmente efficace. Un misto di sentimenti si agitò in Fred, un desiderio pazzo di frustare Horrock fino a fargli esprimere la propria opinione, frenato dal desiderio di conservare il vantaggio della sua amicizia. C'era sempre il caso che Horrock dicesse qualcosa di assolutamente inestimabile al momento giusto. Mr. Bembridge aveva dei modi più aperti e sembrava esprimere le proprie idee senza economia. Parlava con sonorità, era robusto e talvolta di lui si diceva che fosse portato a esagerare, soprattutto nell'inveire, nel bere e nel picchiare la moglie. Certuni che ci avevano rimesso per causa sua lo chiamavano un degenerato, ma egli considerava il commercio dei cavalli la più bella delle arti e avrebbe potuto sostenere in modo plausibile che non aveva niente a che vedere con la moralità. Era innegabilmente una persona agiata, tollerava l'alcol meglio di quanto altri tollerassero la propria moderazione e tutto sommato fioriva come il verde lauro. Ma la gamma della sua conversazione era limitata e, come la bella canzone di un tempo, Gocce di Brandy, dopo un po' vi comunicava la sensazione di tornare su se stessa in un modo che avrebbe potuto far venire le vertigini a una testa debole. Ma si era dell'avviso che un po' di Mr. Bembridge infondesse tono e carattere a diversi circoli di Middlemarch ed era una figura di spicco nel bar e nella sala da biliardo del Green Dragon. Conosceva alcuni aneddoti sugli eroi delle piste da corsa e varie trovate intelligenti di marchesi e visconti che sembravano dimostrare che il sangue asseriva la propria supremazia persino fra i truffatori. Ma la minuziosa ricettività della sua memoria si mostrava principalmente a proposito dei cavalli che aveva comprato e venduto. Il numero di maglie che vi facevano percorrere in men che non si dica senza muovere un pelo era, dopo il passare degli anni, ancora argomento di affermazioni solenni, in cui egli assisteva alla fantasia dei suoi ascoltatori, giurando solennemente che loro non avevano mai visto nulla di simile. In breve, Mr. Bembridge era un uomo di piacere e un allegro compagno.